per Radio Cerrano, Eleonora Marchini intervista la pittrice Sonia Babini. Buonasera agli ascoltatori di Radio Cerrano Web, la radio delle terre del Cerrano, in diretta streaming su radiocerrano.net e sulla pagina Facebook dell'emittente. Io sono Eleonora Marchini e questa sera, per questo appuntamento particolare, un po' speciale di mezz'estate, sono in compagnia di un'artista poliedrica e molto frizzante, abruzzese, originaria di Atri, ma da qualche anno residente a Pineto, che è Sonia Babini. Buonasera Sonia. Buonasera. Sonia questa sera è con noi per raccontarci un po' di un evento particolare che ci sarà questa domenica 29 a partire dalle 21 a Villa Fidiani, nella splendida cornice di Villa Fidiani a Pineto, un vernissage, un incontro molto speciale e creativo tra l'arte, la pittura e la moda. Quindi queste due espressioni della creatività e dell'arte si uniranno per dare vita ad un evento molto emozionante, di cui adesso Sonia ci svelerà qualche dettaglio in anteprima. Allora, innanzitutto, buonasera Sonia e benvenuta su Radio Cerrano. Raccontaci un po' di questo evento. Buonasera a tutti. Dunque, questo evento è nato da un'idea mia ed una mia amica, una stilista di moda, e è un progetto che volevamo portare a termine da tanto tempo. E quindi quest'anno la proponiamo, come dicevi prima, presso la Villa Fidiani. In cosa consiste? Consiste nel trasferire le mie opere d'arte. Io sono una pittrice e dalla tela l'abbiamo fatta stampare sul tessuto, quindi è il materiale che usa la stilista di moda. Per questo motivo lei, con i tessuti dove sono stati stampati i miei quadri, realizzato degli abiti da sera e le assemblate ad altre stoffe, sempre rigorosamente fatti a mano. E in questa occasione, il 29 di luglio alle ore 21, presenteremo questa piccola collezione in un défilé di moda con quattro modelle professioniste, e successivamente ci sarà il vernissage della mia mostra di pittura all'interno di Villa Fidiani, e sarà presentata dal critico d'arte Maurizio Vitiello di Napoli e dalla dottoressa Anna Maria Dell'Agata di Roma, è residente a Pineto e possiede il centro Agatè. Quindi una serata tutta all'insegna dell'arte, del fashion, della moda, una sorpresa, sarà un'esplosione di colori, perché la tua arte, la tua pittura è molto ricca, i tuoi colori sono molto forti, gli accostamenti, con questi accostamenti anche a tratti violenti, colori a tratti violenti, ma che trasmettono ugualmente la dolcezza delle emozioni, l'intensità delle emozioni. Ce ne sarà uno in particolare, un abito che riporterà un dipinto di Sonia che ricorda la tragedia di Rigopiano, sì. Ed è una rappresentazione molto forte, molto intensa. Ci vuoi dire qualcosa? Solo un piccolo dettaglio, svelarci in anteprima un piccolo dettaglio di questo abito e di questo dipinto. Che cosa ha significato per te? Allora, questo quadro, diciamo che è venuto spontaneamente fuori, perché la tragedia di Rigopiano ha toccato tutti, e soprattutto me, con delle persone che conoscevo. E quel giorno, mentre pensavo proprio quello che è accaduto, e da questo quadro io, dalle macchie di colore, sono riuscita a intravedere un occhio. E questo occhio l'ho portato leggermente fuori, nel senso, ho fatto un po' di spazio attorno, ho cercato di tirarlo un po' fuori, però ho lasciato tutto il resto con il mio informale. E il significato qual è di quest'opera? E l'ho intitolato questo quadro Il Silenzio, perché il silenzio era quell'occhio che guarda fisso davanti, è il silenzio di chi ha visto e non può raccontare, e di chi ha visto ma non vuole raccontare, perché la tragedia è stata veramente enorme. Un quadro quindi che farà un po' venire la pelle d'oca a chi ha vissuto e ricorda quegli attimi tragici di Rigopiano. Non abbiamo detto il titolo della serata, il titolo della mostra, che sarà Influenze, Art and Fashion. sarà l'influenza tra me e la, in questo caso la stilista, che si chiama Maria Teresa Carletti, è originaria di Silvi Marina, ma da un paio di anni si è trasferita a Sassari per motivi di lavoro familiare e lì ha intrapreso la sua carriera da stilista, lo era già, però adesso è entrata a far parte di diverse associazioni anche culturali. Recentemente ha partecipato a diverse sfilate di moda a Torino presso Casa Martini, ha presentato anche una bellissima collezione di abiti con dei bellissimi fiori, che tra l'altro lei in questa occasione metterà su manichini per la sera del vernissage in una delle stanze della Villa Figliani, mentre invece presenterà proprio con le modelle la nuova collezione dedicata alla nostra art and fashion. Due persone che comunque caparbiamente hanno inseguito i loro sogni, hanno trovato la loro strada e l'hanno percorsa e la stanno percorrendo senza curarsi troppo degli ostacoli, perché comunque di ostacoli quando si tratta di inseguire i sogni ce ne sono sempre tanti. L'importante è non arrendersi, no? E di superare sempre magari quel tanto i propri limiti e andare oltre, perché come si dice l'oltre non finisce mai, ci si può sempre migliorare. Un secondo appuntamento, lo diciamo, sarà appunto replicare questo evento proprio in quel di Sassari. Quindi Esatto. Questa sarà, diciamo, una prima uscita di questo connubio tra arte e moda, che poi sarà riproposto appunto nella città in cui la stilista in questo momento vive. Esatto, infatti pensiamo nel mese di settembre, la data ancora da definire, andremo a Sassari. E in questo caso faremo proprio una sfilata di moda, ci sarà un ulteriore arricchimento della collezione che la stilista porterà per l'occasione. Quindi altri modelli, altre proposte realizzate sempre con queste stampe, questi tessuti stampati. Esatto. Con diciamo la riproduzione delle opere d'arte e sempre abiti eleganti di gran sera. Sì. Esatto. Perfetto. Ricordiamo solamente che per la serata sarà stato studiato un accompagnamento musicale pensato ad hoc dal compositore belga Piotr Lakert, che sì, si è occupato insomma della parte musicale. Parliamo un po' di sogni adesso, perché poi non svegliamo troppi dettagli, invitiamo comunque tutti gli ascoltatori, tutti i curiosi, gli appassionati d'arte e di moda ad essere presenti a questa serata evento che sarà, mi aspetto, molto molto molto emozionante, sia per il contesto che per la cosa particolare che verrà presentata, che verrà proposta. Parliamo un po' di Sonia, quindi svegliamo qualche dettaglio, anche se Sonia è molto conosciuta in zona e anche altrove, perché ha esposto le sue opere non solo in Abruzzo e in Italia, ma anche all'estero. Ma da dove nasce questa passione? Cioè, è stato un sogno fin da bambina? Hai sempre saputo di voler fare l'artista o c'è stato un momento in particolare in cui hai capito, una specie di folgorazione? In realtà è un po' l'uno e un po' l'altro, perché effettivamente la passione per la pittura e il colore, tutto ciò che fosse creativo, l'ho sempre avuta, quindi fa parte proprio della mia persona. E l'ho capito mano a mano che andavo avanti, perché non potevo farne più a meno. Poi all'età delle scuole medie incontrai un pittore molto bravo ed era anche il mio insegnante di educazione artistica appunto alle medie, e lì ho avuto la fortuna di studiare con lui e mi sono appassionata, e lì rispondo alla tua seconda, e lì ho capito che faceva parte di me. Quindi io durante la mia vita ho fatto tutto, un po' di tutto, quindi ho fatto la ceramica, un po' di scultura, ho spaziato nell'arte, però sono tornata sempre alla pittura. Quindi lì ho capito che la pittura mi appartiene innanzitutto. E successivamente con questo insegnante abbiamo fondato diverse associazioni culturali e abbiamo seguito corsi, abbiamo organizzato mostre estemporanee, mostre di pittura contemporanea, insomma abbiamo fatto veramente un percorso molto lungo, infatti se risaliamo dall'età dell'adolescenza fino ad oggi, e non mi sono mai fermata. Perfetto, e sono sicura che non ti fermerai mai. Sonia, potete seguire le sue vicissitudini, le sue opere, i suoi progetti, sia sulla pagina Facebook che insomma è proprio Sonia Babbini. Sì, C'è anche un sito internet, certo, vogliamo dire? www.soniababini.it. Perfetto. E una domanda: il quadro che avresti voluto dipingere? Qualsiasi cosa di Leonardo da Vinci, il genio in assoluto. La scoperta di questi dettagli ogni volta che lo Sì, osservi non si ti finisce mai di guardare, ogni volta sembra un quadro nuovo. progetti per il futuro, per l'immediato futuro? I progetti per il futuro, posso dire che continuerò la mia ricerca, continuerò a credere in quello che ho fatto finora e continuerò a credere che voglio proseguire sempre per questa strada. Senza fermarsi, Esatto, migliorandosi sempre. esatto, esatto. Allora, noi ringraziamo intanto Sonia per averci tenuto compagnia in questi brevi istanti, questa breve chiacchierata che un po' ci ha svelato quello che sarà l'evento di domenica, un po' ci ha parlato di lei e vi invito a seguirla sempre in tutti i suoi progetti perché veramente è una persona che trasmette emozione non solo con i suoi quadri, ma proprio lei con il suo sorriso. Quindi vi aspettiamo domenica 29 luglio a Villa Filiani a partire dalle 21 per questo vernissage che si chiama Influenze. E intanto vi auguriamo una buona serata, se ci ascoltate di sera, se ci ascoltate invece in qualsiasi momento della giornata, buon pomeriggio, buona mattina, buon pranzo, buon tutto. E mi raccomando, sintonizzatevi sempre su radiocerrano.net. Get ready. Time to get ready.